Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Come abbiamo avuto modo di spiegare molte altre puntate, quest'anno c'è il boom delle obbligazioni aziendali. Lo scriveva il collega Moria Longo, che è qui con me questa mattina a Salva Danaio, il Sole 24 Ore. Record di offerta, record di domanda. Vivacizzare l'interesse dei risparmiatori italiani. È arrivata anche l'ENI, è partita infatti lunedì scorso, il 15 giugno, si concluderà il 3 luglio, ma a questo punto è data le luci alle luci appunto delle notizie che sono arrivate questa mattina, prevista probabilmente anche una chiusura anticipata di questa operazione. Parliamo appunto dell'offerta pubblica di obbligazioni emesse dal cane a sei zampe. L'obiettivo di ENI era di raccogliere 1 miliardo di euro, ma in realtà ne sta già raccogliendo praticamente 2 miliardi, quindi offerta doppia. Per la prima volta dal 2005 sul mercato italiano, l'ultima maxi operazione è stata quella di Enel, anche i piccoli risparmiatori possono acquistare allo sportello un prestito obbligazionario. Allora, una vera e propria buffata di corporate bond, li chiamiamo all'inglese, che sta coinvolgendo gli investitori istituzionali del mondo intero, ma adesso in Italia anche il popolo dei risparmiatori retail. Il contesto di mercato in cui arriva questa operazione di Eni è molto particolare. Dopo la paura del 2008, nel 2009 gli investitori di tutto il mondo stanno ricominciando a prendere fiducia. Atteggiamento giusto, atteggiamento sbagliato, non lo sappiamo ancora, non siamo ancora in grado di interpretare bene tutto questo. In ogni caso le borse stanno rimbalzando, molto denaro si sta riversando anche sul mercato delle obbligazioni societarie. Allora, di tutto questo oggi vogliamo parlare con Moria Longo, come vi dicevo. Allora lo lascio anche salutare. Moria, bentornato. Bentornato, grazie, buongiorno. Con Jacopo Ceccatelli, amministratore delegato di JC Associati. Ceccatelli, buongiorno. Buongiorno. È una società di analisi che probabilmente sta anche così, proprio con il radar, leggendo tutti i dettagli del prospetto informativo dell'obbligazione Eni, anche se in realtà a questo punto, data che la sottoscrizione è andata così, è stata così di successo, chi doveva leggerselo spero che lo abbia già fatto. E poi commenteremo anche questa tendenza con Gianni Bizzarri, presidente di Banca Ifigest e fanstore.it. Bizzarri, benvenuto. Presidente, buona giornata. Buongiorno. Grazie di essere con noi anche a lei. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi in diretta, ma ci potete anche scrivere al 349-238-6666. Parlavamo di ripresa della borsa che è ricominciata dai minimi del 9 marzo, un bel recupero per tutti i listini internazionali. Da qualche giorno però c'è qualche frenata un po' decisa, così, che prende lo spunto da fattori diversi, una volta perché il petrolio è risalito a $70, una volta perché le notizie economiche non sono molto incoraggianti, ma insomma sono tutte notizie che conosciamo. Oggi sono arrivate le previsioni dell'Ocse, che sono tra l'altro molto pesanti per il nostro paese. Infatti Milano stamattina è la piazza che perde di più in Europa. FTSE MIB in ribasso di 2 punti, Parigi meno 1,39, Francoforte meno 1,30, Londra meno 1 punto, l'euro sul dollaro a 1,38,61, il petrolio, dicevamo, ha avuto le ultime ore piuttosto tranquille, stamattina sui mercati asiatici è risalito a $71. Vediamo a Milano due soli titoli positivi: sono Finmeccanica più 1,43%, Luxottica in rialzo di 1 punto, mentre fino a poco fa teneva anche Bulgari, ma adesso è negativa per lo 0,25%, Enel meno 0,8, Snam meno 0,90, Telecom meno 0,96. Questi sono i migliori della seduta. Abbiamo dei cali che sono quasi di 6 punti su Tenaris, di oltre 5 punti su Prismian, CIR perde il 5%, Pirelli meno 4,37, meno 4 punti anche per Mediobanca, per Impregilo, per Buzzi Unicem, meno 4 per Saipem, meno 4 per Autogrill. Insomma, una bella lista stamattina. STM meno 3,53, Banco Popolare meno 3,44, Banca Popolare di Milano meno 3,31. Direi che ci possiamo lasciare anche qua. Un altro caso magari carino da segnalarvi, per modo di dire, è il precipizio di Rio Tinto a Londra, meno 20%. Il gruppo ha riportato una contrazione degli utili di quasi il 50% nel primo trimestre e insomma questa notizia è stata colta negativamente evidentemente dal mercato. Peraltro oggi aspettiamo anche il dettaglio del progetto di riforma della regolazione dei mercati che è stato messo a punto dall'amministrazione americana. Sentiremo quindi le ultime novità di Barack Obama. Però per adesso lasciamo la borsa e andiamo ad un altro mercato, quello obbligazionario, in grande fibrillazione in questo momento, perché le società stanno tornando prepotentemente sul mercato, complice anche la sete di questo tipo di asset da parte degli investitori. Sentiamo allora quali sono le ultime novità. Voglia di superare la crisi e di guardare avanti. Ricerca di capitali freschi e di investimenti alternativi alle borse ancora volatili. Sono queste le ragioni che hanno spinto da un lato le aziende, dall'altra gli investitori, a tornare alla carica sul mercato dei bond. Qualunque siano state le ragioni, certo è che nei soli primi 5 mesi dell'anno in Europa sono state emesse obbligazioni pari a 172 miliardi di euro. Un record storico che, proseguendo di questo passo, andrà ben oltre il picco raggiunto nel 2001, quando nell'intero anno si raggiunse quota 200 miliardi. E se l'offerta è stata da primato, la domanda non è stata da meno. Così anche le big di Piazza Affari hanno deciso di tornare con prepotenza sul mercato delle obbligazioni corporate e di andare a bussare direttamente alla porta dei piccoli risparmiatori attraverso i cosiddetti bond retail. La prima a scendere in campo è stata Eni, che lunedì scorso ha emesso per la prima volta dal 1995 un maxi bond da 1 miliardo di euro. E a soli 2 giorni di distanza si preannuncia il tutto esaurito. Circostanza quest'ultima che dovrebbe spingere il cane a 6 zampe a incrementare a 2 miliardi il quantitativo offerto. Il rendimento, che sarà definito entro 5 giorni dalla conclusione del periodo di offerta, il 3 luglio, sarà compreso in una forchetta tra lo 0,85 e l'1,35%. Ma Eni non sarà la sola a rivolgersi al retail. Anche Telecom Italia ha in cantiere un bond riservato a piccoli risparmiatori per settembre, che seguirà quello da 2 miliardi conclusosi ieri, rivolto però al mercato istituzionale. Segnali dunque che lentamente il mercato finanziario sta tornando alla normalità e guarda finalmente avanti, oltre la cortina della crisi. Forse abbiamo detto un'imprecisione nella scheda, adesso grazie Moria, magari ci torneremo su questo punto che si riferisce al rendimento che dovrebbe essere reso noto al termine appunto del periodo di offerta per il bond Eni e questa forchetta che abbiamo indicato fra lo 0,85 e l'1,35, che in realtà dovrebbe rappresentare, invece, per essere precisi, lo spread, quindi praticamente quel margine riconosciuto, sì, sopra i tassi di interbancari individuati, diciamo, il livello zero dei tassi. Adesso ci andiamo nel dettaglio, perché poi l'obbligazione è divisa in 2 tranche. Ce n'è una che ha un rendimento a tasso variabile, una a tasso fisso, e entrambe appunto hanno una modalità per poterlo calcolare un po' complicata, ma è sicuramente differente. Adesso ci andiamo. Commentiamo però in termini generali così questa tendenza sulla quale tu hai scritto tanto qualche tempo fa. Riprendo l'articolo in mano. Domenica 7 giugno, bond 5 mesi da record, già battuti il primato annuale di emissioni del 2001, ma si teme l'effetto boomerang. Quindi cominciamo subito a mettere un po' in guardia da questa nuova bolla, Moria, poi sentiremo anche gli altri ospiti se sono d'accordo. Io il tema della bolla sui corporate bond la chiedo da tempo, da mesi, a tutti gli economisti e operatori che incontro. Tutti dicono di no, quindi premesso. E il motivo per cui tutti dicono che non è una bolla è perché di fatto il record di corporate bond è l'altra faccia del calo che c'è stato fortissimo sui finanziamenti da parte delle banche alle imprese. Cioè le banche stanno finanziando meno le imprese, questo a livello globale. Infatti. Quindi le imprese vanno sul mercato obbligazionario per raccogliere gli stessi soldi che avrebbero raccolto le banche. Do solo un dato per capirci, secondo una ricerca fatto Citigroup poco tempo fa, in America nel 2007 furono erogati dalle banche alle imprese 2.000 miliardi di dollari di credito, di finanziamenti, nel 2008 meno di 1.500, quindi c'è stato un crollo di oltre 500 miliardi solo nel 2008. Magari nel 2009 sarà ancora peggio, visto che il 2009, almeno per i primi 3 mesi, è iniziato con una crisi molto forte sulle borse, anche se sta rimbalzando. Quindi questo è il motivo per cui tanti dicono che non è una bolla. Io qualche rischio però lo vedo, per due motivi. Il primo è perché gli investitori stanno investendo tanto perché sul mercato c'è tanta liquidità, le banche centrali e il governo hanno inondato il mercato di liquidità, quindi ci sono tanti soldi, i tassi sono molto bassi, gli investimenti vanno un po' sulle borse ma molto più sui corporate bond, perché danno una cedola fissa, cosa che le azioni per esempio certo. Non fanno, anzi ultimamente molte società hanno annullato i dividendi o ridotti o eccetera. Ecco, quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo per cui c'è questa forte offerta, appunto, perché le società ne stanno approfittando e quindi stanno emettendo una valanga di bond. Il problema, secondo me, qual è? Il problema è che questa forte domanda ha fatto scendere tantissimo i rendimenti, gli spread di cui parlavamo adesso. Da inizio anno più o meno sono dimezzati, cioè se fino a un po' di tempo fa si pagava rispetto ai titoli di Stato, rispetto all'Euribor, uno spread, ora si paga più o meno la metà. Questo cosa vuol dire? Che chi compra adesso compra rendimenti più bassi rispetto a quello, il che è naturale, fa parte del mercato. Il problema dal mio punto di vista quale può essere? Che se l'economia si riprende veramente e, come qualcuno dice, inizia a dire, tornerà l'inflazione, le banche centrali dovranno rialzare i tassi di interesse, è ovvio che queste obbligazioni avranno una penalizzazione dal punto di vista del prezzo. Quindi chi le tiene fino alla scadenza, se la società non va in default, e non è, ovviamente non è il caso dell'ENI, va tutto bene. Se uno magari vuole smobilizzarle prima, potrebbe avere una perdita in conto capitale. Il problema è che in questo boom di emissioni probabilmente c'è qualche società che rischia. Ecco, questo è il secondo rischio di cui parlavo prima, a mio avviso. Le società, le agenzie di rating, sia Moody's che Standard & Poor's, prevedono per quest'anno e per l'anno prossimo una forte escalation di default, cioè tantissime società andranno secondo le loro previsioni in default. Ovviamente si tratta, loro fanno queste default, fallimenti, bancarotta, lo dico perché c'è un ascoltatore che si lamenta che stiamo parlando un po' troppo in inglese questa mattina. Giusto, quindi... default vabbè. È facciamo... quello che ha fatto la Parmalat, per intenderci, oppure l'Argentina. In realtà conosciamo fin troppo bene questo termine. E ovviamente queste statistiche si riferiscono alle società con bassi rating, quindi ad alto rischio, ripeto, non è assolutamente il caso dell'ENI, però comunque l'intero mercato dovrà dell'obbligazione aziendale dovrà fronteggiare, se le previsioni Standard & Poor's Moody's saranno azzeccate, un fortissimo aumento delle insolvenze, dei fallimenti, e questo sicuramente i prezzi dovrebbero tenerne conto. Ecco, i rendimenti stanno scendendo molto e può darsi che non tengano più conto di questo rischio che c'è ancora sul mercato. In fondo l'economia è ancora in calo, la crisi non è ancora passata, tanti problemi che c'erano in 2007 sono ancora tantissime, certo. Allora, prima di cominciare ad esplorare la maxi emissione obbligazionaria del cane a sei zampe, che è il sinonimo con il quale definiamo ENI, volevo sentire un commento rispetto a questo quadro che ci ha dipinto Moria Longo, di grande prudenza e cautela intorno a questo mercato, dei nostri altri due ospiti. Ovviamente ricordandovi che potete chiamare all'800240024, scriverci al 349-238-6666. Gianni Bizzarri, comincio da lei, presidente di Banca Ifiges, fanstore.it, che è una piattaforma dove è possibile fare compravendita di fondi comuni di investimento e quindi attraverso, come dire, l'utilizzo dello strumento online, un grande abbattimento anche di costi. Poi magari le faremo ricordare anche come funziona la vostra piattaforma. Bizzarri, però, le chiedo un po' un commento rispetto a quello che abbiamo sentito. La vostra così indicazione di massima su questo mercato è di possibile bolla o Moria è stato un po' troppo pessimista? Ma diciamo che la cosa più interessante che ho sentito recentemente, che credo che sia un punto dal quale partiremo, nel senso di nuove notizie, nuove informazioni, nuovi commenti, è quello che ha detto Draghi ieri, relativamente al fatto che bisogna, o ieri l'altro, non mi ricordo, relativamente al fatto che... rendersi un po', affrancarsi dal dollaro. No, bisogna cominciare a studiare l'uuscita da questo periodo di... La exit strategy, sì, esatto. Pur essendo prematuro parlare di uscita dalla crisi, bisogna già mettere in piedi le strategie che serviranno per riassorbire parte di questa liquidità che è stata immessa nel periodo di crisi, perché questo potrebbe creare in fase di ripresa non pochi problemi. Quindi queste dichiarazioni sono particolarmente strane se si va a vedere chi le fa la persona che è responsabile dello Stability Forum, quindi vuol dire che la sua visione, i suoi indicatori relativamente all'andamento dell'economia non sono così negativi, perché se già stanno pensando a come gestire il riassorbimento dell'eccesso di liquidità in caso dell'uscita dalla parte peggiore della recessione, questo vuol dire che appunto i loro indicatori sono, sono abbastanza positivi. Oggi il chief strategist, il responsabile delle strategie di Goldman Sachs, dice che probabilmente andremo incontro a una correzione dei mercati finanziari dovuta al fatto che parte della benzina che si sta già pensando come levare parte della benzina che è stata immessa. Altro elemento, il fatto che le principali banche americane che avevano ricevuto i finanziamenti del TARP stiano già restituendo a 10 miliardi di dollari per volta questi finanziamenti, vuol dire che non certamente che li hanno guadagnati questi soldi in questo periodo, ma che si è normalizzato il mercato del credito. Quindi quello che è successo, per riassumere, è che si è riaperto il mercato del credito, che era quello che poi si voleva, e quindi le aziende, le banche Potrebbero cominciare a pensare di far meno ricorso al mercato del capitale, meno ricorso agli strumenti obbligazionari, e ricominciare a chiedere credito con le vie tradizionali, in sostanza? No, diciamo che quello che è stato il grosso, diciamo, punto, quello a cui che il grosso successo recente, che è stato riaperto il mercato del credito, che le aziende e le banche stanno ritornando sul mercato del credito e stanno raccogliendo soldi. A questo punto lo stimolo governativo, diciamo istituzionale, eccetera, può piano piano essere ritirato, e questo prelude a una normalizzazione della situazione. Quindi che relazione c'è con il tema di stamattina, dottor Bizzarri, per arrivare appunto all'offerta sul mercato di tanti titoli societari, di tante obbligazioni societarie, con i quali appunto i risparmiatori anche piccoli si devono confrontare? Noi oggi parliamo della grande obbligazione, della grande operazione di Eni, ma le chiedo proprio in termini generali, che relazione c'è rispetto a queste indicazioni che lei ci ha ricordato? Il tema. L'indicazione appunto che si riapre il mercato del credito, questo è positivo. L'operazione dell'Eni è un'operazione, secondo me, che ha maggiore valenza pubblicitaria. Ricordiamoci che loro stanno cercando di levare il marchio Agip e di mettere il marchio Eni. Se guardate la pubblicità abbinata all'emissione obbligazionaria, fa vedere come ai distributori il nuovo marchio sarà quello dell'Eni. Quindi siccome non vediamo nessun motivo per cui l'Eni debba andare a approvvigionarsi come è andata ad approvvigionarsi attraverso un'emissione retail, riteniamo che questa operazione sia un'operazione che abbia più una valenza pubblicitaria rispetto ad una valenza Finanziaria, industriale. Perché se volevano, in due giorni chiudevano un'emissione rivolta agli istituzionali senza nessun problema. Beh, allora, insomma, fare un'operazione di marketing. Prendiamo atto della sua considerazione, quale sia la valenza. Fatto sta che c'è stato il tutto esaurito praticamente al primo giorno di collocamento, tanto che il gruppo dovrà raddoppiare l'offerta, come in realtà si era già detto disponibile a fare. Jacopo Ceccatelli, la vede anche lei in questa maniera, una grande operazione di immagine, di marketing? E poi vedremo, insomma, se questa operazione di immagine e marketing si andrà a riflettere anche tra le tasche dei risparmiatori che hanno scelto questo obbligazione in maniera interessante. Ceccatelli, JC Associati. Sì, sicuramente ha una componente di marketing importante l'operazione. Dal punto di vista degli investitori retail, secondo me però ha anche un'altra valenza, perché indubbiamente la normativa diciamo degli ultimi 3 anni ha di fatto reso questo mercato, cioè il mercato delle obbligazioni societarie, abbastanza di difficile accesso ai piccoli risparmiatori. C'è una grandissima sproporzione tra la domanda di titoli di emittenti di qualità come può essere Eni e l'effettiva offerta poi messa a disposizione dal sistema. Prova ne sia che i pochi titoli, per esempio, quotati sul MOT quotano normalmente con grandissimo premio in termini di prezzo rispetto a quelli non quotati sul MOT, che significa che appunto il MOT è tipicamente un mercato retail, significa che appunto il mercato retail, come d'altra parte il mercato istituzionale, come hanno giustamente sottolineato gli altri precedenti interventi, ha in questo momento un interesse notevole. Quindi sicuramente è un'operazione di marketing per Eni. Direi che per il mercato retail però è una buona cosa, perché consente di, come dire, di ridurre un gap che comunque si è creato. Era ragionevole attendersi un tutto esaurito nel giro di così pochi giorni, Ceccatelli? Ma adesso non so se in giro di pochi giorni, ma siamo così. Eni è un nome che ovviamente piace tantissimo a retail. Chiaramente le condizioni sono tra l'altro in linea con quelle delle obbligazioni esistenti. Questo è un altro elemento secondo me interessante, perché fino adesso, almeno negli ultimi mesi, tutti gli emittenti, anche quelli di qualità, per assicurarsi il collocamento presso gli istituzionali hanno offerto condizioni leggermente migliorative, anche molto migliorative, penso anche a Finmeccanica a fine dell'anno scorso, rispetto ai bond in circolazione. Tra l'altro c'è anche No, dicevo, probabilmente Eni, vista la domanda, uscirà nella parte bassa della forchetta nell'intervallo di rendimento e quindi rischia addirittura di uscire leggerissimamente a sconto in termini di rendimento, quindi con rendimenti leggerissimamente più bassi, il che è un buon successo anche dal loro punto di vista, perché il costo della raccolta forse sarebbe stato marginalmente superiore. Poi ci sono tanti discorsi legati poi invece al costo dell'operazione che indubbiamente vanno considerati. Tra l'altro volevo ricordare che c'è forse anche un aspetto da considerare, che l'otto minimo è abbastanza contenuto, perché è un quantitativo minimo di due obbligazioni, 2.000 euro, per cui forse anche questo ha permesso a molti piccoli risparmiatori, insomma, di avere un accesso a questo tipo di investimento. Allora, io adesso devo andare in pausa, anzi abbiamo 30 secondi di tempo, allora faccio fare la domanda di Giovanni da Como, così gli rispondiamo non appena ritorniamo in onda nella seconda parte della nostra trasmissione. Giovanni, benvenuto. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Sì. La domanda è la seguente: io ho cercato di sottoscrivere delle obbligazioni ENI all'inizio della settimana. Sì. E mi è stato detto che la mia capacità di sottoscrizione doveva essere inferiore o uguale al 35% del mio deposito titoli. Questo in base a una normativa MIFID. Sì. In alternativa potevo sottoscrivere fino a 5.000 euro, che è quella che loro impropriamente chiamano franchigia. Io in questo momento ho un deposito titoli veramente bassissimo, non capisco perché non posso spendere i miei soldi come voglio. Vorrei capire se... No, diciamo che sicuramente la banca non glielo ha fatto per dispetto, probabilmente proprio perché adesso in base a quanto chiede la normativa MIFID, gli investimenti devono essere fatti secondo criteri molto rigorosi di attinenza alla propensione all'investimento e al rischio del cliente in discussione. Eccoci ritrovati in diretta, richiamo all'ordine Moria Longo, che si è distratto, ma a parte gli scherzi questa mattina stiamo parlando del settore delle obbligazioni societarie. Ce ne sono tante sul mercato in questo momento e forse quante ancora ne arriveranno entro la fine dell'anno. Perché? Perché le aziende, per finanziarsi, per proseguire i loro piani di sviluppo, naturalmente visto che le banche hanno chiuso la sala cinesca, negli ultimi tempi hanno dovuto fare raccolta in qualche altro modo e quindi hanno fatto questo ricorso al mercato, perché c'è tanta liquidità, perché le banche centrali hanno abbassato i tassi. Quindi le ragioni di questa proliferazione le abbiamo analizzate in lungo e in largo. Qualcuno teme che possa esserci una bolla rispetto a questi strumenti, qualcuno invece sostiene, lo abbiamo sentito dai nostri ospiti, che si sta andando verso una normalizzazione del mercato del credito, per cui anche questa sorta di allarme rientrerà. In tutto questo è arrivata la maxi obbligazione dell'ENI nel nostro paese, è possibile fare la sottoscrizione da lunedì scorso, sarebbe stato possibile farla fino al 3 luglio, ma è già andato tutto esaurito e probabilmente appunto il gruppo dovrà raddoppiare l'offerta delle obbligazioni distribuite tra il pubblico retail. Allora, ancora non siamo riusciti ad andare nel dettaglio di questo prodotto, abbiamo però sentito alcune domande da parte di alcuni ascoltatori. Allora, mi faccio aiutare per rispondere a Giovanni da Como, da Gianni Bizzarri, presidente di Banca Ifiges. Sostanzialmente Giovanni voleva comprare, sottoscrivere, prenotare un po' più obbligazioni rispetto a quelle che la banca gli ha reso disponibili, Bizzarri, perché dice c'è la direttiva MIFID, quindi l'intermediario deve comportarsi correttamente in un'ottica di totale trasparenza verso il cliente, anche se la direttiva MIFID è molto più complessa, e in pratica gli ha detto che rispetto al suo deposito, al suo conto titoli, non può sottoscrivere più del 35% di obbligazioni ENI. Secondo lei gli ha dato le indicazioni corrette? Ma allora, da quello che ho capito, sì. Indicazioni che variano da banca a banca, nel senso che la direttiva MIFID ovviamente è abbastanza complessa, ma si basa sul fatto che deve essere profilato il cliente e quindi la banca ha la responsabilità ultima di capire come il cliente deve essere profilato sulla base di un punteggio che viene data al cliente sulla serie di una risposta, sulla serie di risposte a delle domande che vengono poste. Poi sopra questo punteggio, che a seconda che venga alto o basso permette di prendere più o meno rischio, c'è anche un limite di concentrazione, che quello lì cambia da banca a banca, nel senso che ogni consiglio d'amministrazione delibera, se vogliamo, il massimo di concentrazione su un titolo da tenere presente in un dossier, e quindi se questa banca ritiene che il limite di concentrazione massimo del cliente e in generale dei suoi clienti sia superato con questa richiesta, non la autorizza. Devo dire che la MIFID dà luogo a tutte queste problematiche, non solo perché ci sono delle obbligazioni che tante obbligazioni che i clienti non possono proprio comprare e che se la banca le vende rimane lei solidalmente responsabile, diciamo, con l'emittente. Quindi sono delle cose che probabilmente dovranno essere in futuro corrette, ma che danno luogo soprattutto nelle banche di grande dimensione, dove la personalizzazione del rapporto con cliente è minore, a questo genere di problemi. Mm-hmm. Io intanto stavo controllando le telefonate che ci stanno arrivando, è incredibile Clara, così la tendenza, l'orientamento che manifestano i nostri ascoltatori. Ho tre donne in attesa che vogliono sapere qualcosa di più rispetto all'obbligazione ENI, quindi sono anche molto contenta che molte signore siano molto attente agli investimenti di casa propria. Allora, sentiamo Sandra da Roma e poi ritorniamo a Moria Longo e Jacopo Ceccatelli. Sandra, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti prima di tutto. La mia domanda è questa. Io vorrei acquistare appunto delle obbligazioni ENI. Sì. Ho acquistato la settimana scorsa delle azioni Enel. Sì. Quindi questa domanda era prima, volevo sapere se mi conviene comunque avere un portafoglio non molto alla fine diversificato. Tra l'altro Clara, se non si sbriga con Eni mi sa che proprio non c'è più niente da comprare. No, perché con la banca più o meno sono abbastanza d'accordo. Gliele hanno tenute da parte. Sì. E poi volevo appunto chiedere, mi conviene tasso fisso o tasso variabile? Perché non è che mi sono informata moltissimo. Allora, lei lo sa Sandra che noi non possiamo fare sollecitazione all'investimento, perché noi possiamo a tutt'al più spiegarle come funziona un'obbligazione legata ad un determinato parametro piuttosto che ad un altro. Cercheremo di darle delle risposte più diplomatiche possibili. Però intanto Moria, magari volevo chiederti, tra l'altro l'ascoltatrice ha acquistato anche azioni Enel nel pieno dell'aumento di capitale, qua insomma per fare... Penso l'abbia comprata in aumento di capitale, immagino. Esatto, infatti credo di sì, perché questo è il periodo, tra l'altro si chiude il 19 anche questo, anche se con la banca c'era... No, in realtà con la banca dovevano aderire gli eventuali sottoscrittori fino al 12, poi magari con Ceccatelli mi faccio aiutare anche su questo. Però così un po' un commento anche rispetto a questo fatto che Sandra si orienta, non dico sul medesimo settore, ma quasi. Allora, premesso che sia Eni che Enel sono due società solidissime, per cui non danno particolari problemi. Premesso che l'investimento in azioni è una cosa, l'investimento in obbligazioni è una cosa completamente diversa. Comprare obbligazioni significa prestare soldi a una società, comprare azioni significa diventare socio della società. Tu diventi proprietario, tra virgolette, senza virgolette, proprietario di una piccola quota della società. Quindi premesso che sono due cose completamente diverse, è ovvio che la diversificazione fa sempre premio, perché anche se questo è un settore, sicuramente sono due società sicuramente solide, però sono in settori abbastanza simili, comunque energetici, e quindi possono subire le stesse andamenti in futuro di prezzo, quindi quando salgono magari salgono insieme, quando scendono magari scendono insieme. Correttezza vorrebbe magari diversificare di più magari attraverso i fondi, che poi sono la diversificazione, diciamo, fatta persona. Certo. Jacopo Ceccatelli cosa risponderebbe a Sandra, e poi se mi aiuta possiamo andare anche alla famosa, appunto, alla questione che ci aveva posto rispetto al rendimento del bond prescelto, se quello a tasso fisso o quello a tasso variabile. Sì, ma per quanto riguarda la prima risposta, ovviamente diciamo concordo sul fatto che ovviamente la differenza fondamentale è che una è un'azione e quindi avrà sicuramente un profilo di rischio molto più alto e un'oscillazione di valore nel bene o nel male decisamente più elevata, e l'altra è un'obbligazione. Tra l'altro sicuramente tra le due società chi ha un profilo di diciamo così di rischio secondo me un filo più elevato, soprattutto dal punto di vista dell'obbligazione, è Enel, ovviamente, soprattutto per una situazione di indebitamento un po' maggiore rispetto a Eni. Detto questo, direi che sì, sicuramente le due società sono tutte e due fortemente, come dire, radicate nell'economia italiana e su un settore attivo, non è lo stesso settore, ma comunque è un settore complementare, e quindi da questo punto di vista, ecco, non c'è sicuramente una diversificazione, diciamo, particolarmente elevata. Per quanto riguarda invece la scelta tra il tasso fisso e il tasso variabile, allora intanto ricordiamo che entrambe le obbligazioni hanno una durata di 6 anni. Sì. Allora, premesso che come mi limito a citare i pro e i contro delle due, dei due titoli. Nel caso del tasso fisso si prenderà una cedola verosimilmente vicina al 4%, forse un po' superiore, adesso vediamo. È una cedola fissa, quindi se ha una certezza di flusso cedolare nel corso degli anni del 4%, diciamo qualcosa in più, qualcosa in meno, il prezzo del titolo potrà oscillare molto, perché ovviamente se i tassi saliranno, come tutti sanno, i titoli a tasso fisso vengono penalizzati in termini di prezzo, se i tassi scenderanno verranno tra virgolette favoriti. Quindi per chi ha intenzione di tenere la scadenza dà una maggiore, cioè, se vogliamo, certezza; per chi invece non è sicuro e pensa che potrebbe anche venderla nel giro dei prossimi anni, non aspettare 6 anni, sicuramente c'è una componente di rischio più elevata. Mm-hmm. Il tasso variabile è esattamente l'opposto: non abbiamo la certezza di una cedola fissa, ovviamente la cedola che verrà probabilmente la cedola che verrà fissata sarà la prima cedola, sarà attorno al 2,25%, intorno a questo, quindi più basso del 4% del tasso fisso. In compenso il valore del titolo dovrebbe mantenersi comunque su livelli abbastanza vicini a quello di acquisto. L'unico rischio in questo caso è che proprio il merito di credito di Eni possa possa deteriorarsi, cosa che ovviamente tutti riteniamo abbastanza poco probabile. E insomma, non è facile fare una scelta rispetto a questo strumento, nonostante il grande successo. Io devo dire la verità che così fare il conteggio del rendimento, il calcolo, è un'operazione molto ardua, tant'è vero che ci siamo sbagliati anche nella scheda. Sì, no, poi tra l'altro c'è il solito dilemma che c'è anche coi mutui: tasso fisso è punto fisso, tasso variabile se sale, esatto, il rendimento hai un vantaggio. Grande opportunità in questo momento, ma qualora si verificasse di nuovo una situazione come quella di settembre, sappiamo qual è lo scenario peggiore al quale possiamo andare incontro, che potrebbe essere esplorato anche in termini peggiorativi, però non lo sappiamo. Peraltro, il fatto che sia andata così a ruba la richiesta di questa obbligazione, adesso chissà se imporrà anche la necessità di un riparto fra gli aderenti, non lo so, questo lo dovremo senz'altro valutare. Vedremo adesso come si concluderà l'operazione, soprattutto se Eni definirà una chiusura anticipata dei termini appunto di sottoscrizione. Ho anche appreso che per chi ha scelto di fare l'adesione online della sottoscrizione del bond Eni ha tempo fino a domani per poter fare la sua richiesta, mentre in termini generali l'offerta è disponibile fino al 3 luglio. Sento la domanda di Clara da Torino. Peter, se non ti dispiace, poi sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio. Clara, buongiorno. Buongiorno, io ho sentito all'inizio che hanno detto che il taglio minimo per acquistare queste obbligazioni era di 2.000 euro. Invece sì, io nel foglio che mi ha dato l'Unicredit Banca, cioè il taglio minimo è euro 1.000. Com'è? Allora, sì, forse mi sono sbagliata io. Allora, eccoci ritrovati in diretta. Noi stiamo cercando questa informazione. Clara mi aveva messo un po' in apprensione. Io so da più fonti, li sto cercando anche su internet, che il lotto minimo sottoscrivibile è pari a 2 obbligazioni. Visto e considerato che il taglio minimo delle obbligazioni è pari a 1.000 euro, si deduce che l'esborso minimo da destinare a questo investimento è pari a 2.000 euro. Questo è il motivo per cui abbiamo raggruppato in 2.000 euro. Non lo so, Jacopo Ceccatelli, lei mi può aiutare? JC Associati. Sì, penso che ci sia un malinteso, forse, ecco. Nel senso che il prospetto correttamente dà come lotto minimo acquistabile 1.000 euro, perché è il lotto minimo con il quale circolerà l'emissione, quindi l'emissione poi una volta, diciamo così, emessa, quindi negoziabile sul mercato, sarà negoziabile a lotti di 1.000 euro in 1.000 euro. Questo non impedisce che il lotto minimo acquistabile in sottoscrizione non sia 1.000 ma 2.000 euro. 2.000 euro. Bisogna comprare 2 obbligazioni da 1.000 euro ciascuna, dopodiché si potranno vendere anche una alla volta, però al momento la sottoscrizione, questo è probabilmente un limite che si è imposto il sottoscrittore per evitare di parcellizzare enormemente poi i sottoscrittori. Benissimo. Il numero di sottoscrittori. Speriamo di aver fugato i dubbi di Clara, adesso andiamo da Bruna. Pronto? Bruna, buongiorno, da Torino. Buongiorno. Senta, io ho dei bot che mi scadono però al 15 luglio e io vorrei disinvestire per poter prendere queste obbligazioni dell'Eni. Sì. Pertanto ho questo mese, no? Mm-hmm. E se mi conviene, in quanto ci saranno sicuramente spese e commissioni. Bruna, qua sa com'è? Allora, intanto la scelta è per una persona affezionata ai titoli di Stato, che sicuramente adesso non rendono un granché, qua forse abbiamo qualcosa di un po' più appetitoso, però lei dice, insomma, vorrei disinvestire questi per portarmi sul mercato delle obbligazioni societarie. Che bel dilemma, Moria. Forse se lo pongono in tanti in questo momento, alla luce dei rendimenti al lumicino dei titoli di Stato. I titoli di Stato in questo momento non sono particolarmente appetibili. Quelli brevi perché hanno tassi molto bassi, quelli a lunga scadenza perché verosimilmente se aumenta l'inflazione, migliora l'economia, verosimilmente scenderanno di prezzo. Quindi non è forse non sono particolarmente appetibili adesso. I corporate bond, come quello dell'ENI, cioè le obbligazioni aziendali, hanno ovviamente un margine, un interesse maggiore, ovviamente controbilanciato da una rischiosità maggiore che per lei sarà pur sempre relativa, ma pur sempre una rischiosità. Vorrei sentire anche Gianni Bizzarri, presidente di Banca IFIGES, su questa così propensione all'investimento da parte della nostra ascoltatrice, che vorrebbe abbandonare il titolo di Stato per portarsi invece su un investimento di un altro genere. Ma io sono assolutamente favorevole al fatto che vengano venduti i titoli di Stato a favore di questo genere di corporate bond, perché si tratta di corporate bond di buona qualità e sicuramente la differenza è notevole di rendimento e quindi va a favore del corporate bond, insomma, quindi non vedo dubbi in questo momento. Oltretutto, eventualmente la problematica nei mesi scorsi si era soprattutto posta per le banche più che per dei gruppi come l'ENI o come l'Enel, e quindi direi che per il momento la sottoscrizione di un corporate bond come quello dell'ENI è favorevole, insomma è sicuramente migliore rispetto alla sottoscrizione di un titolo di Stato, quindi non avrei grossi dubbi. Non avrebbe grossi dubbi, no. Però ecco, il problema di Bruna è che in realtà il problema è che non gliele daranno perché c'è una tale un po' in ritardo. Ma no, arriverà credo che verranno estratte sulla base del codice fiscale, da quanto ne so io, su base nazionale, e sicuramente le richieste superiori a certi importi non verranno soddisfatte. C'è l'estrazione, infatti c'è anche questo, la questione del riparto nel prospetto informativo. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al numero di lotti minimi disponibili, i responsabili del collocamento procederanno ad assegnare i lotti minimi ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte, che sarà effettuata con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento. Insomma, qua abbiamo letto Moria. Caspita, è meglio del lotto, non so se... Trasparentissimo. Allora, Jacopo Ceccatelli aveva suscitato qualche domanda sulla spiegazione rispetto al calcolo del rendimento delle due obbligazioni disponibili a tasso fisso e a tasso variabile, domande che ci fa Diego da Milano, che saluto. Diego, benvenuto. Sì, buongiorno. Io volevo avere un'informazione, nel senso che ho già sottoscritto l'obbligazione ieri, però sono, appunto, non essendo un esperto, sono andato a chiedere in banca e mi hanno, non avendo neanche idea in realtà se tenere queste obbligazioni per i 6 anni o prima o meno, mi è stato consigliato di sottoscrivere quelle a tasso variabile. Sì. Volevo capire se è cosa che io ho fatto fidandomi tutto sommato della mia banca. E d'altronde che dobbiamo fare, Diego. Esatto. Vabbè, insomma, lasciamo perdere. No, volevo capire se il consiglio che mi era stato dato era sensato oppure era effettivamente migliore questa. Certo, il tasso variabile. Perché comunque c'è ancora tempo e comunque ho ancora capitale per eventualmente magari sottoscrivere ancora qualcosa con a tasso fisso. Ecco. Allora, sentiamo Ceccatelli, visto che era lui che aveva introdotto questo tema. Peraltro nel prospetto informativo, che è piuttosto articolato e lungo, c'è anche una elaborazione di scenari possibili, no, rispetto a quello che potrebbe capitare all'investimento del sottoscrittore. Per chi sceglie il titolo che ha un rendimento a tasso fisso, ENI individua 3 scenari, quello meno favorevole per il sottoscrittore, quello intermedio per il sottoscrittore e anche quello più favorevole. Non è invece così dettagliato per chi presceglie le obbligazioni a tasso variabile. Ceccatelli, allora, come si calcola esattamente? Ci può dare qualche dettaglio in più rispetto al parametro prescelto, perché c'è il rendimento che è indicizzato all'Euribor a 6 mesi e poi maggiorato di un determinato spread, di un sì. determinato spread che sarà tra 0,85 e 1,35, sì. In funzione ovviamente della domanda, quindi suppongo che sarà più lo 0,85 che l'1,35. Attualmente il tasso Euribor è 1,45 e comunque cambia tutti i giorni, quindi se facciamo 1,45 più 85 arriviamo a 2,30. Ecco, però come lei diceva prima, insomma, visto che andremo incontro probabilmente anche ad uno scenario dei tassi di nuovo in movimento, proprio per effetto anche della necessità di riassorbire tutta la liquidità in circolazione, tutti i fenomeni economici che poi determineranno appunto la dinamica dei tassi, per una persona come l'ascoltatore che ci ha chiamato, che ci ha già chiarito che probabilmente non vorrebbe portare a scadenza questo prodotto, per chi ha già un orientamento chiaro di questo genere, il tasso variabile secondo lei è da privilegiare rispetto al fisso? Ma sì, lo dicevamo anche prima, è sicuramente uno degli aspetti cruciali. Se uno non pensa di detenerle fino a scadenza, a meno che non intenda fare una speculazione sul ribasso dei tassi, ma questo ovviamente deve essere una decisione presa con una certa attenzione, il tasso variabile consente di dormire sonni più tranquilli, perché sicuramente la cedola sarà inizialmente più bassa, poi non si sa ovviamente, in ogni caso le cedole sono previste in aumento, perché come diceva correttamente lei, i tassi sono previsti in aumento nei prossimi anni, quindi a fronte di questo comunque qualsiasi sia lo scenario futuro si potrà avere un impatto sulle cedole che sarà di 1-2 punti percentuali, 3 all'anno di differenza di flusso cedolare, ma non si avranno minusvalenze, ecco, questa è un po' la differenza. Tra l'altro c'era un ascoltatore, Franco da Bari, che non riesco a sentire, ma voleva credo esprimere le stesse considerazioni, definendo appunto il variabile meno rischioso considerati i rischi del periodo dell'investimento, ma insomma non riusciamo ad approfondire questo tema, speriamo di aver chiarito quantomeno i termini generalissimi della questione di questa maxi obbligazione sul mercato, che comunque ha contribuito a vivacizzare non poco l'interesse degli investitori dato il successo che ha avuto, ma era dal 1995 che non andava sul mercato retail e a quanto pare insomma Moria non vedevano l'ora. Può darsi, evidentemente c'è forte domanda, tra l'altro da tempo che non c'erano offerte retail, perché l'ultima volta era stata l'Eni nel 2005, sì, giustamente come si diceva prima, dopo i casi Cirio e Parma agli investitori retail è stata preclusa la possibilità di comprare molte obbligazioni sui mercati internazionali, quindi queste di fatto sono le uniche loro opportunità, quindi è anche per giusto che le società lo facciano sul mercato domestico. Grazie a Moria Longo, a Jacopo Ceccatelli di GSI Associati, Gianni Bizzarri di Banca Ifigest, grazie a Gaia Romano e Francesco Di Bruno per la collaborazione in redazione, Peter Bescapè oggi in assistenza tecnica. Noi ritorniamo naturalmente domani, ci sarà con voi Valeria De Rosa, noi ci risentiamo lunedì, a presto.